sognato che un mattino, risvegliandomi pian piano, ero morto e rinascevo in un momento, e scendevo giù nel vento senza il minimo lamento, a esortare tutti gli uomini a essere uomini. Ho sognato che un mattino, risvegliandomi piano piano, che non c'erano più poteri e schiavitù, e una voce tra le nubi mi esortava dall'assù a cantare una canzone a tutti gli uomini. C'è tanta gente che per vivere deve strisciare e a grandi sbarre sulla propria libertà. C'è tanta gente che non sa ancora cosa sia la dignità, perché la sua l'ha rubata altri uomini. Ho sognato che un mattino, risvegliandomi pian piano, discendevo nel più cupo degli inferni e parlavo ai drogati, ai lebbrosi, ai perdenti, e li esortavo a ribellarsi come uomini. Ho sognato che un mattino, risvegliandomi piano piano, l'umanità. Era Marco Chiaristrelli a cantare e siamo davanti alla prefettura e siamo in un giovedì di dicembre e con cartelli che dicono digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti. È un gruppo di persone che si trova qua, non ci sono né bandiere né simboli di partito né di organizzazioni né di sindacato. Allora, chi sono queste persone, che cosa fanno e che cosa si stanno a fare? Allora, Marco finisce ora di cantare. E chi sono allora questo gruppo di persone e che cos'è questo giovedì? È un giovedì qualunque? È un giovedì di tutti gli anni? Chi è? Sì, è uno dei tanti giovedì intorno al quale noi costruiamo questo nostro stare insieme. Il 68esimo giovedì è più di un anno e mezzo, praticamente siamo qua tutti i giovedì per formare questo cordone di resistenza umana. Resistenza umana per riuscire a risvegliare in noi quel senso veramente profondo di umanità che viene prima di qualsiasi altra cosa. Continuiamo a credere che bisogna ancora una volta stare qua, fare in modo che, nonostante ci sia stato un cambiamento di linguaggio, ma ancora le cose non sono cambiate per niente rispetto a tutti i migranti, rispetto a quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, rispetto alla rotta balcanica. Sono persone che continuano a morire, persone, i porti che continuano a essere chiusi, ci sono ancora decreti di sicurezza bis che sono diventati legge e che continuano ad essere in vigore tranquillamente. Non si smuove niente e si continua a essere alla mercé di questa politica italiana ed europea veramente miope, che non si rende conto che questo processo di movimento provocato dalla barbarie nostra continuerà e continuerà ancora per tanto. E allora noi abbiamo il dovere di testimoniare e di fare questo atto politico profondo di attenzione, di cura, di accoglienza profonda di queste vite che hanno bisogno di ritrovare la loro dignità profonda. Qui vedo uno striscione che dice disobbedire alle leggi per obbedire alla Costituzione. Una domanda su questo striscione che porta anche la scritta umani per resistere e sul tipo di persone che ci sono qui. Sono sempre le stesse? È un gruppo che organizza questo presidio? C'è un ricambio di persone? Chi sono? Il presidio nasce da un po' dalla spinta che la comunità delle piagge ha cercato di dare raccogliendo davvero tante anche adesioni, tanti altri, per cui è diventato poi un movimento di persone, di gente che si ritrova intorno a questo comune del bisogno anche di disobbedire, della capacità anche di disobbedire di fronte a delle leggi ingiuste, delle leggi che provocano la perdita di dignità delle persone. E allora dalla comunità delle piagge poi è nato questo gruppo che appunto Umani per Resistere, che si è legato insieme e che ha trovato 500 firme di persone che hanno deciso che si impegnano a disobbedire qualora ci fosse da aiutare e sostenere magari la vita di qualche persona che per la legge dovrebbe essere mandata a casa. E noi siamo qua per continuare a dire che lo faremo e continueremo a fare il nostro alla barba anche di queste leggi, che continuano a essere leggi anticostituzionali e assolutamente inaccettabili. Ecco, sentiremo adesso qualcun altro, perché ci sono alcuni striscioni e alcuni cartelli che richiedono una spiegazione. Lo chiediamo successivamente ad altre persone. Per coltivare la speranza, come abbiamo detto altre volte, anche perché le forme con cui ci dobbiamo ribellare a certe situazioni, a certe ingiustizie di fondo, sono difficili da trovare. Questo può essere giudicato una semplice testimonianza, ma credo che sia utile, insomma. D'altra parte, l'altro giorno si parlava a una presentazione di un libro di quello che sta succedendo in Francia sulla questione delle pensioni, e qualcuno diceva, sì, ma quello è semplice ribellismo, non è una rivoluzione. Probabilmente è vero, però a volte a fronte di una mancanza di organizzazione, di capacità, eccetera, dobbiamo accontentarci delle modalità che troviamo in maniera immediata, insomma, per rispondere a quello che ci viene tolto, insomma. E ci viene tolto tanto, perché penso anche alla questione delle istituzioni, insomma, eravamo una repubblica parlamentare, hanno squalificato sempre più il Parlamento e adesso addirittura lo vogliono ridurre, come fosse una cosa più che giusta levare di mezzo quello che era, che doveva essere il luogo proprio del confronto di tutta la realtà del paese, in cui le varie rappresentanze si confrontavano per trovare le soluzioni migliori. C'è stato un periodo in cui in qualche modo qualcosa è stato fatto in questo senso, e ora invece diventa un peso anche questo confronto, è molto più facile il decisionismo e quindi trovare le soluzioni immediate, che poi soluzioni non sono, vediamo appunto sui migranti che cosa viene deciso, delle cose da far rizzare i capelli. Umani per Resistere, Refugees Welcome. Oggi sono particolarmente un po' giù, direi, perché sono successe ultimamente varie situazioni, ma con gli italiani, che mi hanno fatto capire che manca proprio il buon senso in questo momento. E anzi, non manca solo il buon senso, manca proprio un senso, cioè nel senso sembra proprio che non abbiano senso. I ragazzi, specialmente i giovani, fanno delle cose, mi hanno fatto delle cose dove io rimango sconvolta, dico ma com'è possibile? Com'è possibile fare queste cose? E non sono neanche nera, voglio dire, cioè, veramente sono rimasta varie volte molto male, manca il senso, i ragazzi avrebbero bisogno di avere a scuola qualcuno che gli insegni a dare un senso alla propria vita, qualsiasi senso, basta che ci sia un senso. Abbiamo registrato le voci di Alessandro, di Luciano, di Masha, e perché lo svolgimento del presidio è tale per cui c'è una trasposizione di esperienze, di idee, di quello che ciascuno vive, ed è un momento di socializzazione anche, di notizie e di informazioni. Quindi non è solamente un presidio che mostra dei cartelli, ma fa anche qualche cosa d'altro. In particolare c'è qui una lista di nomi. Chiediamo a Masha di che tipo di lista di nomi si tratta. Si tratta di un lungo lenzuolo, di uno striscione bianco con scritti dei nomi. Allora, che cosa sono questi nomi, Masha? Allora, questi nomi sono stati pubblicati su un supplemento di Internazionale e sarebbero tutte le persone morte nel Mediterraneo durante il 2018. E non so se vedi anche questo supplemento, è pieno di NN, no name, con dietro scritto di chi si tratta, cioè una donna, un bambino, circa un anno, circa un paio di mesi, un uomo giovane, non viene descritto più di quello, non hanno neanche un nome. E quindi noi stiamo scrivendo, all'inizio abbiamo scritto solo i nomi, l'idea è di farli scrivere anche dalle persone che passano, per dare un attimo un senso a questo nome, un senso a questa morte, un senso a questa persona, cioè farlo rivivere un po'. Pensare un attimo, anzi glielo chiedo proprio, di pensare un attimo alla persona che è dietro a quel nome. E a un certo punto abbiamo cominciato anche a scrivere i no name, quelli che non hanno nome, perché anche loro, anche se non sappiamo come si chiamano, sono state delle persone. E quindi molte persone si commuovono anche perché si rendono veramente conto di quante persone sono realmente morte. E addirittura una persona si è rifiutato, un ragazzo nero insieme alla sua fidanzata, americani erano, e si è rifiutato e mi ha guardato e dice: guarda, vedo tanti Diallo, io di cognome faccio Diallo, non ce la faccio a scrivere altri nomi Diallo. Grazie Masha, e ancora Marco Chiavistrelli ci canta qualcosa. Gusti, richiami a tradizioni e nostalgie, ricette della zia, canto a bui razzismi, nuovi fascismi per una vecchia umanità. Crocifisso e tortellini e violente apparizioni, politica solo di nomi per colonizzare menti, occhi dementi a roteare più che puoi viltà. Che del progresso sia la nuova scienza, che di utopia sia coscienza, dell'uguaglianza no, non si può fare senza. Guarda il nemico, un volto come il tuo, cerca uno specchio, vedrai che quel sorriso è il suo. Crocifisso e tortellini, potenti tradizioni, valori sacri e belli, ma guai essere buoni. Vuoi sognare un mondo senza confini e povertà? Sono simboli cretini. Siamo sempre qui davanti alla prefettura, via Cavour 2. Chiediamo a Caterina, ma questo presidio, insomma, non sono tante persone, però vediamo, abbiamo constatato che di volta in volta sono anche persone diverse quelle che vi partecipano, ma di questo presidio non se ne è sentito mai parlare né in televisione né nei media, né nessuno ne parla, ma qualcuno invece ci risulta che ne sta parlando e anche con un certo fastidio. Che cosa ne pensi, Caterina? No, noi comunque siamo qui da un anno e mezzo e quindi chiaramente abbiamo visto anche nei mesi vari approcci, insomma, delle forze dell'ordine che dovevano controllare la nostra presenza, soprattutto diciamo nel periodo della presenza di dell'ex ministro dell'interno, ci sono stati degli atteggiamenti molto minacciosi nei nostri confronti. Di quale ministro dell'interno ma si tratta ancora? Ma io non lo voglio nominare. Ah. È la mia scelta di non nominarlo, perché non voglio. Però abbiamo capito di chi si sta parlando, e quindi c'erano degli atteggiamenti molto minacciosi. Ci hanno anche chiesto ci hanno minacciato di sequestrarci gli striscioni, che non li potevamo affiggere. Comunque noi siamo andati avanti e adesso le cose sono tranquille. Diciamo, se ne parla poco perché abbiamo scelto un'ora che ovviamente non facilita la partecipazione, di questo ne siamo consapevoli. Perché a che ora avviene questo presidio? Tutti i giovedì sotto la prefettura dalle 1 alle 3. E è però un'ora simbolica perché rappresenta un digiuno di giustizia. Cioè, questa iniziativa è nata, diciamo, sulla scia di quella che è stata la prima iniziativa di Alex Zanotelli, che ha lanciato i digiuni di giustizia davanti a Montecitorio. Quindi noi abbiamo ripreso qui questa sua iniziativa e la stiamo portando avanti qua, da qua dall'estate in cui l'avviò lui, l'estate del 2018. Quindi noi da allora continuiamo tutti i giovedì a essere qui, e però al di là della partecipazione più o meno numerosa, io penso che sia una presenza importante perché è costante, perché tutti i giovedì noi ci siamo, perché tutti i giovedì ci facciamo vedere e tutti i giovedì risolleviamo questo problema, perché adesso quello che c'è è alla fine è una grande indifferenza. Sembra che il problema sia risolto semplicemente perché è stato rimosso, ma non è così. Cioè, le emergenze sono tutti i giorni nelle nostre strade. Ecco, qui siamo, quindi siamo a un giovedì che è quanto? Il 60 e qualcosa? Sì, dovrebbe essere il 68esimo, insomma, siamo sui 70 presidi ormai. Ecco, qui col caldo, col freddo, sì. Il presidio c'è sempre, e tutti i giovedì? Sì, tutti i giovedì. E se venite, naturalmente questo presidio è un'iniziativa di una rete ampia, la comunità delle piagge, la rete di solidarietà, il movimento Umani per Resistere, Refugees Welcome, cioè chi partecipa è anche poi un attivista nel suo quotidiano, quindi venendo qui magari uno entra a conoscenza di una realtà che va avanti poi tutti i giorni sul territorio di Firenze. Qui siamo a giovedì attualmente 19 di dicembre, fra una settimana e Natale. Che cosa succederà allora? Ci saranno delle iniziative anche che riguardano i migranti e di solidarietà con i migranti? Ora, questo dovremo parlare sul discorso della prossima settimana, decidere anche fra noi cosa faremo concretamente. E sicuramente stiamo pensando di fare un capodanno tutti insieme, quindi anche con tutti i ragazzi migranti che conosciamo, fare un'iniziativa cittadina, ma di questo daremo notizia. E sicuramente c'è già fissata l'Assemblea Generale del Movimento Umani per Resistere, che è il 25 gennaio. Queste come prossime iniziative pubbliche. Anna ha detto in questo momento alcune cose molto importanti e molto interessanti che riguardano la salute dei migranti, perché in queste riunioni, in questi, diciamo, in questi presidi c'è uno scambio, come dicevo, uno scambio di informazioni e di dati. Vuoi, Anna, per favore, ripetere quello che stavi dicendo a proposito della salute? Sì, volentieri. No, comunicavo appunto nello scambio di informazioni in questo nostro presidio che è recentemente uscito un numero monografico di Epidemiologia e Prevenzione, che è una rivista scientifica, dedicato interamente alla salute dei migranti. Il volume è ricchissimo di dati attraverso diverse regioni, non tutte però, del nostro paese. Quello che attira l'attenzione è un po' la sintesi, e cioè che rispetto agli italiani si ricoverano i migranti meno e hanno tassi di mortalità più bassi. Mediamente, cioè, la salute dei migranti è addirittura migliore di quella degli autoctoni, degli italiani. Con esclusione però, statisticamente ovvio, tutte le persone che provengono dall'Africa subsahariana. Un capitolo specifico è dedicato alla salute delle donne, per le quali, specialmente per tutto quello che riguarda la maternità e l'infanzia, si registrano diversi problemi. E quindi questo sembra essere un po' il punto di caduta. Non solo, ma nelle statistiche di ricovero a livello nazionale emerge che il numero è superiore al necessario, diciamo così, perché nella non conoscenza del sistema, nella mancanza di informazioni diffuse sul territorio, eccetera, i migranti vanno al pronto soccorso, vanno all'ospedale, anche laddove non ci sarebbe bisogno del ricovero, non c'è bisogno del ricovero, e tutto potrebbe essere risolto in maniera ambulatoriale o al massimo in day hospital. Quindi questo denuncia da una parte molti luoghi comuni sul fatto che i migranti portano malattie, eccetera, sul fatto che i migranti, essendo assistiti sanitariamente, sono un costo per la collettività evidentemente minore di quello che si blatera, che si chiacchiera. Infine, che la disinformazione, che è un problema anche per gli italiani, sicuramente è ancora più accentuata per i migranti e comporta un numero maggiore di ricoveri, perché se uno sta male male va al pronto soccorso, mentre magari potrebbe trovare un'altra soluzione meno onerosa per il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, direi che questo punto è un punto su cui la sensibilità è molto alta e anche le esperienze sono molte. Cioè, il problema è quello, mi pare, che i migranti non vengono seguiti, cioè che non viene fatta loro una educazione sull'organizzazione della società e quindi come utilizzare al meglio i provvedimenti, il welfare della società, e vengono abbandonati e quindi si devono in qualche maniera arrangiare. Sì, è proprio così. L'interessante di questo studio è che, prendendo a soggetto i migranti, però non è che esclude valutazioni e considerazioni su tutto il sistema. Infatti posso citare un pezzettino che è il commento dell'istituto promotore di questa ricerca. Dice: è noto che in Italia sono presenti disuguaglianze in tutti gli esiti di salute, considerando per le più importanti dimensioni di posizione socio-economica. Alcuni sottogruppi di popolazione, in particolare gli immigrati, ma non solo gli immigrati, risultano inoltre particolarmente vulnerabili allo svantaggio nella salute, proprio per motivi socio-economici, cioè per una questione di povertà. Di miseria. Culturale anche. Ecco, di miseria in senso complessivo, cioè di ignoranza e di povertà economica. Questo, che è vero per tutta la popolazione italiana, nello studio statistico fa del gruppo migranti un soggetto di particolare attenzione. Continuo a fare una selezione di articoli letti nella settimana, notizie che magari abbiamo già letto tutti, che però forse è opportuno anche ricordare per farne anche un po' di memoria. Parto da 16 dicembre, su Avvenire: 7 persone sono morte, 20 sono disperse e altre 63 sono state portate in salvo in un naufragio al largo del Marocco. Sul quotidiano Il Manifesto, un'intervista a Mimmo Locano che dice: sui migranti le sardine parlano la lingua di Riace. 17 dicembre, La Stampa, intervista a Giorgia Linardi, portavoce italiana di Sea-Watch, l'ONG tedesca, con capitana Carola Rachefe. Linardi ha parlato dal palco della manifestazione romana delle sardine, sostenendo di condividerne lo spirito antifascista, antirazzista e improntato ad abbassare i toni violenti tipici della politica sovranista. le sardine sono riuscite a scardinare il sentimento di paura, di diffidenza, di chiusura. Possono sembrare aspetti semplici, ma sono fondamentali per una convivenza civile contro l'atteggiamento di alcuni politici che predicano in nome della paura e della diffidenza. Il 17 dicembre l'Agenzia Internazionale Presenza parla del Niger. Il Niger rischia di trasformarsi in una nuova Libia. L'Unione Europea sta cercando di spingere o trattenere i migranti lì. Nello stesso articolo viene denunciato che l'Italia addestra l'esercito nigerino contro i migranti e le sommosse. Il Niger, ricordiamo, è sede dal 2018, governo Gentiloni, di una da sempre poco chiara missione delle forze armate italiane. Tra i suoi obiettivi, lo scorso febbraio, l'allora ministro della difesa Elisabetta Frenta ha dichiarato: frenare e ridurre il flusso incontrollato di migranti verso il nostro paese. Poco comprensibili anche le attività addestrative condotte sul posto in agosto dai carabinieri italiani per addestrare la Guardia Nazionale nigerina a pianificare, organizzare e condurre in modo efficace le attività di intervento antisommossa. Il 19 tra i peggiori. Le mafie italiane e quella nigeriana sono in affari insieme, un legame criminale che ha nello sfruttamento delle donne, spesso minorenni, una redditizia voce di bilancio. Il sistema di accoglienza e inclusione è stato di fatto smantellato. In passato, ricorda la religiosa, riuscivamo a lavorare con le istituzioni statali e le autorità nigeriane. Così si potevano programmare e finanziare i rimpatri assistiti. Una volta tornate nei paesi d'origine, le vittime della tratta venivano seguite dai missionari sul posto e aiutate a costruire nuovi percorsi di vita. Chi restava in Italia poteva contare su piani di accoglienza che accompagnavano alla piena indipendenza, soprattutto grazie alle piccole comunità di accoglienza. E a questo proposito, se il primo governo Conte ha assestato un colpo mortale a queste buone pratiche, che fra l'altro incentivavano le donne che denunciavano le reti di sfruttatori, l'attuale esecutivo non ha ancora avviato quel cambio di passo che ci aspettavamo per il bene delle ragazze e anche per la sicurezza del paese. Repubblica, 18 dicembre. Atto d'accusa del Tribunale dei Ministri di Catania che chiede di autorizzare il processo all'ex ministro dell'Interno per abuso di potere, contestandogli il reato di sequestro di persona. Non si nomina. Sempre su Repubblica lo stesso giorno, strategia dietro casi illegali di respingimenti di massa. Il rapporto sul 93 profughi della Nivin riportati in Libia con la forza. Ma nel 2018 ci sarebbero stati altri 13 casi analoghi. Un dispaccio del Centro di Ricerca e Soccorso di Roma delle 19.39 del 7 novembre del 2018 dimostra che a coordinare l'operazione di salvataggio di un gruppo di migranti poi riportati in Libia dal mercantile Nivin battente bandiera panamense fu l'Italia. In 93, segnalati prima da un aereo, poi dal centralino Alarm Phone, furono presi a bordo dal Nivin e con l'inganno sbarcati con la forza ammisurata dall'esercito libico, dopo essere rimasti per 10 giorni asserragliati sul ponte del mercantile. Avete ascoltato le voci del presidio, perché qui, come si diceva, non si tratta semplicemente di una dimostrazione, di una manifestazione, ma di luogo di scambio culturale, di scambio di informazioni, sì, di scambio di esperienze. Con le note di Marco Chiavistrelli terminiamo questo servizio, questa comunicazione.